Come si vive a Tione? Non lo so perché non abito qua. Lavoro e basta. Secondo lei, gli adulti come vedono i giovani? Un problema. Secondo lei, i giovani come vedono gli adulti? Un mondo che va scoperto. Ok, grazie.